Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci qui dal Groovemaster Studio, buonasera a tutti voi in contatto con il soundcheck di Radio 24, la prova del suono, buonasera da Gegè Telesforo e buonasera anche alla nostra Silvia Barba. Buonasera a te, buonasera a tutti. Ti stai affezionando anche alle puntate della domenica che, come tutti sanno, hanno il suono più jazz. Devo dire di sì, ma questo perché l'Accademia Telesforo sforna sempre delle notizie molto interessanti. Adesso mi fai arrossire, però è la verità. In qualche modo, ecco, non è sbagliato, soprattutto per dare il via alla puntata di questa sera, perché vorrei presentare agli appassionati di jazz una bellissima pubblicazione discografica molto interessante, interessantissima per tutti gli amanti del bebop. Io sono stato, ho avuto il grande amore per il bebop quando avevo 13-14 anni. Non so se tu ci sei mai entrata proprio nel mondo del bebop. Allora, come ci sei entrato tu? Sicuramente no, come mi raccontavi che ti sei tirato giù tutto. Mi sono tirato giù, avevo 14-15 anni, mi sono tirato giù tutti i temi del famoso periodo, quindi da Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk e poi gran parte degli assoli di Charlie Parker, il tutto proposto vocalmente. Tra l'altro, uno dei miei giochi preferiti allora era anche quello di scrivere i testi a mo' di autore tipico del vocalist, ma in italiano, sui temi che so di Donna Lee, Billy's Bounce, Scrapple for the Apple, quindi i temi, quelli storici di Charlie Parker, li avevo vocalizzati in italiano. Voglio ascoltarli. Boh, chissà, dovrei ritrovare. Dai, no, devi ricercarli. Ricordo che era un quaderno a quadretti intitolato Il quaderno del bebop. Fantastico. Chissà, forse papà ce l'ha ancora, e papà è un compulsivo, come dire, collezionista di cimeli, chissà se è ancora quel quaderno. Comunque, niente, tornando a Charlie Parker, è stato pubblicato da pochissimo questo doppio CD che ci propone tutte le registrazioni proposte da Charlie Parker per la famosa Savoy. Ora, i brani che io ho scelto non appartengono proprio al repertorio di Charlie Parker, bensì vedono Charlie Parker protagonista come sideman di registrazioni fatte per altri artisti, e le propongo perché sono proprio registrazioni d'epoca, quindi vi sto parlando proprio del 1944, quindi quasi Charlie Parker non era ancora un musicista solista così come lo conosciamo noi, e anche il genere, infatti lo capirete, non è proprio bebop, ma insomma siamo a cavallo quasi fra la canzone umoristica, il blues e le prime strutture jazz di quel periodo, anche perché i protagonisti, per esempio il primo brano è stato scritto da un musicista, un chitarrista che si chiama Tiny Grimes. Mai sentito parlare? Beh, ho cercato di lui qualche notizia adesso che mi dicevi, e lui ha collaborato con Charlie Parker in 4 album. Vedi? E canta questa canzone molto divertente, devo dire, in cui si sentono le voci di sottofondo, si sentono le registrazioni veramente nude e crude. Sì, questa è molto originale. È bello anche perché si sente che la registrazione è stata realizzata con 2-3 microfoni. Infatti il suono del sassofono di Charlie Parker arriva a un certo punto da lontano, si sente quasi la passeggiata con il sassofono in mano. Allora, I'll Always Love You Just the Same, il brano è di Tiny Grimes e naturalmente riconoscerete Charlie Parker. I'll always love you just the same. Beh, gli appassionati non possono perdere questa pubblicazione. Charlie Parker, The Complete Savoy Masters, troverete delle perle, dei brani veramente belli. Io mi sono divertito tantissimo. Poi tu sai che io ascolto musica la mattina quando vado a correre con il cane. Ecco. E mi sono perso ascoltando Charlie Parker. Naturalmente ritroverete i grandi protagonisti dell'era bebop, quindi troverete Dizzy Gillespie, anche un giovanissimo Miles Davis. Ma i brani brani più affascinanti per me sono proprio quelli registrati da Charlie Parker per la Savoy in session discografiche con protagonisti altri artisti, quindi non proprio il periodo bebop, precedente al periodo bebop vero e proprio. E il prossimo brano è una composizione che si intitola Slim's Jam, e infatti si sente proprio il sapore della jam session, tra l'altro guidata da un favoloso Slim Gallard, musicista con un grandissimo senso dell'umorismo, che poi è un'arte che nel jazz è stata un po' dimenticata, soprattutto nel jazz europeo a partire dalla fine degli anni 60. È proprio questa atmosfera particolare che emerge da questa registrazione che ci fa capire quanto si divertissero, dai, diciamolo. Assolutamente sì. Allora, attenzione, perché il primo solo è di un sassofonista tenore, poi però quando arriva il solo di Charlie Parker si capisce che lì c'era del materiale umano importante. Ancora Charlie Parker con Slim Gallard, il brano è una jam, Slim's Jam, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Una splendida versione di Don't Be That Way, una composizione targata Benny Goodman per l'armonica cromatica del maestro Toots Thielemans. Questa è una registrazione del 1955, album intitolato The Sound, il primo album americano di Toots Thielemans per la Columbia Records, supportato dal formidabile trio del pianista Ray Bryant. Sì, prima registrazione americana, perché Toots Thielemans, musicista belga, fino ad allora era considerato un chitarrista europeo, anche con il dono di abile fischiatore, un fischio Toots Thielemans di un'intonazione, di una precisione incredibile, un vero strumento, mia cara Silvia. Fatto sta che, suonando l'armonica a bocca cromatica da quando aveva 17 anni e iniziando a gemmare, proponendo assoli fantastici col fraseggio tipico dei sassofonisti, trombettisti e via dicendo, alla fine qualcuno lo ha convinto a utilizzarla più spesso, e ancora oggi è considerato il grande maestro dell'armonica cromatica. Armonica cromatica che ha sfruttato anche in ambienti non jazz. Tu te lo ricordi in televisione con Mina, in Ma quella versione, no, di Non gioco più? Come no, sigla finale di un meraviglioso programma italiano del sabato sera di allora. Ma quando anche con Jacopo Astorius, con tutti, Giolovano, ha lavorato con tantissimo. E infatti Quincy Jones, in molte interviste rilasciate parlando proprio di colleghi e musicisti, considera Clark Terry da un lato e Toots Thielemans i musicisti da tenere in considerazione come punto di riferimento per il talento, il carattere, la simpatia. Allora, Toots Thielemans apre una sezione dedicata all'armonica a bocca, perché naturalmente nel mondo ce ne sono oggi diversi di meravigliosi musicisti, ma io vorrei parlarvi di questo ragazzo italiano, pisano, che ha iniziato a suonare l'armonica a bocca non giovanissimo, ma è diventato un fuoriclasse col tempo, partecipando a masterclass, suonando con i migliori musicisti di jazz italiani. E ve lo presento, si chiama Federico Bertelli, che tra l'altro saluto perché è un mio amico, che ci presenta con il suo quartetto un album nuovo di zecca intitolato Living, che vede la partecipazione anche di un altro formidabile musicista italiano pluridecorato, che è il flautista Nicola Stilo, che pure abbraccio con grandissimo affetto, che salutiamo. E swing. Anche cioè Nicola, apro una parentesi, un musicista completo, meraviglioso, chitarrista favoloso, pianista, col flauto fa quello che vuole, insomma, poi per anni ha accompagnato Chet Baker, è un musicista completo che io adoro. Torniamo a Federico Bertelli, questo il suo quartetto con Pier Giorgio Pirro, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Stefano Tamborrino alla batteria. Il brano è una sua composizione, si intitola Living, è un album da gustare, molto ben realizzato, credo per Giando Music, giusto? Esatto. Giando Music e via Veneto. Veneto. Federico Bertelli al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Mr. Chubanga in person, ovvero Mauro Ottolini con i suoi Sousaphonics, la voce di Vanessa Tagliabue York per questo brano intitolato Cooking Breakfast for One I Love, che troverete nel volume secondo di Musica per una società senza pensieri. Mauro Ottolini è un musicista che io adoro, versatile, molto preparato, formidabile arrangiatore, e soprattutto mi piace proprio la versatilità che propone nei suoi progetti discografici e dal vivo con i suoi Sousaphonics, band che ha riportato agli appassionati di jazz italiani le composizioni, il suono, il periodo di Bix Beiderbecke con un album intitolato Bix Factor, esatto, se non erro, sì, sì. E poi adesso con Musica per una società senza pensieri volume 1 e 2 si sta divertendo a spaziare, insomma. Il titolo guarda, no, veramente garantisce divertimento. Sì, divertimento, ma guarda, io comprerei questo disco soltanto per vedere le fotografie all'interno del booklet con questo abbigliamento, e io vorrei sapere proprio da Mauro Ottolini chi diavolo è il loro stilista. Ma lui è solito presentarsi in queste vesti divertentissime. Stanno proprio avanti. Tra l'altro, grande appassionato di fumetti, e avrai notato che poi su YouTube sono presenti i video ufficiali per promuovere alcuni brani dei Sousaphonics, realizzati da professionisti del settore, guidati dalla follia visionaria di Mauro Ottolini, che abbraccio con grandissimo affetto e al quale faccio i miei complimenti per questo nuovo progetto discografico molto ben realizzato. Sì, si spazia dal jazz più classico tradizionale a sonorità medio orientali, nordafricane, insomma il mondo che contraddistingue il talento di uno dei migliori musicisti italiani ormai da tempo. Grazie a Mauro Ottolini, con il quale chiudiamo allora questo appuntamento del Soundcheck, dandovi appuntamento a sabato prossimo a partire dalle 19:15. Sempre qua su Radio 24. Grazie a Silvia Barba, grazie a tutti te. Voi, ecco qui I'm Glad Salvation Is Free, sempre la voce di Vanessa Tagliabue York, dal repertorio di Mahalia Jackson per Mauro Ottolini, Sousaphonics. A tutti voi buona serata, buona settimana e buona musica da Giorgio Telesforo.